canzone a cominciar. La canzone, la canzone a cominciar. A cominciar. Il pensier sopra i capricci della bella fiorilla hanno già messo in scena dei poeti d'ogni razza, sciocco marito ed una moglie pazza. Ecco appunto Geronio che ha la pazzia di farsi astrologare, corre Zingari presto ad avvisare. Astrologar, che mi sappia che mi sappia astrologar e mi dica in confidenza se col tempo e la pazienza il cervello di mia moglie potrò giungere a sanar, potrò giungere a sanar, potrò giungere a sanar, potrò giungere a sanar, potrò giungere a sanar. Ma la zingara ti avrà, impossibile, impossibile trovar, ma la zingara ti avrà, è impossibile trovar, ma la zingara ti avrà, è impossibile trovar, è impossibile. Il cervello di mia moglie è formato di tal pasta che un astrologo non basta, che un astrologo non basta. Come fatto ad indagar? Il cervello di mia moglie è formato di tal pasta che un astrologo non basta. Come fatto ad indagar? Come fatto ad indagar? Come fatto? Come fatto ad indagar? Come fatto? Come fatto ad indagar? Come fatto ad indagar? Hey! l'Italia ed osservar i costumi europei. E sembra strano che salvi in questo ancora con questa curiosità. Il caso è molto raro in verità, ma pur sicuramente egli è aspettato, anzi, gli han preparato un palazzo magnifico e una festa. Pochi giorni qui resta, poi ritorna in Turchia. Dove conosca la fede il vostro cuore, si farà con l'amante mediatore. Dite, migliore idea, trovar non si potea. Facile via, principe ingresso. Se a Selim ritornarvene bramate, lasciate fare a me. Sì, non ho pace, non ce l'ho in voi. Anche con me, crudel! No! Chiamami! Sempre di voi, fedele! Thank you. Oh, opera, ma non ci vedo intreccio naturale. Pensiamo di scoprire qualche altra cosa. Chissà, potrei trovare materia tal che colpo possa fare. Sembra fedele amante. poi si suol cangiare in un istante. Non ho trovato nulla che mi faccia. Poeta! Don Narciso! Come? Siete qui solo? Io vi credevo della Fiorilla in compagnia. Venne meco, ma poi prese altra via. Ditemi, la vedeste? Io no. Con lei ha qualche intrigo che mi tiene nascosto. Pensa, il servente cavalier geloso scoprì un terreno, mi potrebbe offrire qualche bel episodio. All'incostante son venuto in odio. Amici, soccorretemi, consigliatemi, io son fuori di me. Che venne mai? Che cosa c'è? In questo punto io vidi mia moglie con un turco. Un turco? In vita! In casa mia lo guida a prendere il caffè. Siam maledetti tutti i turchi del mondo. Un punto è questo da farsi molto onore. Io non mi curo d'avere in casa mia il gemmato turbante. Dio, come si chiama? Selim Damele. Selim, davvero? L'amante della zingara? Per questo arrivo improvviso. È un bel colpo di scena, il dramma è fatto. Apollo, ti ringrazio. È matto, è matto. Un marito scimunito, una sposa capicciosa, di meglio non si dà. Oh, so di meglio non si dà. Un marito scivolito, so di meglio, no di meglio, no di meglio non si dà. Una sposa capricciosa, so di meglio, no di meglio, no di meglio non si dà. Mio signor, che bulla è questa? Mio signor, che bulla è questa? Di rispetto per la testa, sì. Qualcheduno romperà, mi rispetti con la testa. Qualcheduno romperà, mi rispetti con la testa. Qualcheduno romperà. Un galante soppiantato, un bel turco innamorato. Un amante soppiantato, o che intreccio che si fa? O che intreccio che si fa? Oh, che intreccio che si fa? Per chi vedi di parlare? Non ti vedi di cercare? Oh, che metà palabra, per chi vedi di parlare? Non ti vedi di cercare? Oh, che metà palabra, per chi vedi di parlare? Non ti vedi di cercare? Oh, che metà palabra. Ma, signor, perché si scalla? Lei, signor, perché si infiamma? Ma, signor, perché si scalda? Lei, signor, perché si infiamma? Perché? Perché? Sceglie il buio e non mamma l'argomento che mi par. L'argomento che mi par. Sembra pure un argomento che mi pari non sa darti, dei mariti non maltratti, che sa farsi rispettar, dei mariti non maltratti, che sa farsi rispettar. L'argomento che mi par. Lasciati bene galanti, è la padrona dello Stato, un poeta bastonato, che farò di tramentare, un poeta bastonato, che farò di tramentare. Oh, prima! Il marito! marito con l'amico. La prima moglie turco grida in tribù, grida turco, grida moglie. No di meglio non si donna, no di meglio, no di meglio, no di meglio, no di meglio, no zitta turco. No di meglio non si dà turco. No di meglio non si dà. Se da prima, oggi no prima. Mia cara, anche in Turchia, che gli amore. Sente, sente, sente un turbo anche gli amore. Cambia pare che in Turchia sente solo si possiede. Non si cambia, non si cede, sente un turbo anche gli amore. Non si cambia, non si cede, non si cambia, non si cede. Sente un turbo anche l'amore. Ecco qui da soli a soli. Che mi tocca sopportare. È permesso. Si può entrare, sperare posso un tal favor. Sperare posso un tal favor. E pretende quell'antico. Il marito, indietro, presto! Come? Ehi, che tratto è questo? Il marito, indietro, indietro! Thank you. Ammazzarmi volea, che dici, ma strinse per placarlo a baciargli il vestito. Oh, il bel terzetto! E chi restava ancor, se Don Narciso non arrivava a tempo e non prendeva giusta difesa d'oltraggiato sposo? Che scena! Che quartetto prezioso! Ma di che vai parlando? Io non ti intendo! Scusate! Disponendo stava un dramma burlesco. Or, che pensate di dire a vostra moglie? Oh, se la fosse docile, com'era la mia prima sposa. Carmelina, annunziata. Siamo a Napoli. Le mie ragioni far valer potrei, ma il rovescio è costei della medaglia. E tal perché in voi trovo un uomo di paglia. Uomo di paglia? Sì, voi. Ma come? Il poeta ha ragione, è la pazienza la virtù dei somari. Al fin son io che devo comandare in casa mia, o quel turco o mia moglie vada via. Il girone ancor com'è, cattivo incontro, sarò costretta per un quarto d'ora ad ascoltar precetti di morale. Eccola, via. Gravità. Credi che quanto vuoi, tacer dovrà. Oh, quanti bocconi amari mi si fanno inghiottir. Con chi l'avete? Con una donna pazza, bizzarra, capricciosa, che per disgrazia a Don Geronio è sposa. Stanco son io. Vi prego di non gridarsi forte, che duole un poco il capo. Anche a me duole, ma cospetto farò. Non vi scaldate, non sapete parlar, se non gridate. Ascolterete, sì, ascolterete, signora Smorfia, o alla capanna antica tornerete in Sorrento, ov'io vi presi, gran sproposito fatto, se più resto con voi, divento matto. Fate vostri lamenti in faccia ai miei. Oh. Ebbene, di voi mi lagno, che cambiata vi siete e che il marito far crepar volete. Di voi mi dolgo anch'io per la ragione che vi siete cambiato. Io? Ve lo provo. Per piacere alla signora, per piacere alla signora, io da quando le sapere. Ma io non lo so aspettare, ma io non lo so aspettare. Ma si ascolta. Si vuole sordo. Ma se vedo. Si fa leggero. La signora non l'accordo, la signora non l'accordo, ma vedremo parlare. Ma sarete per malordo, vi farete per malordo, ma sarete per malordo, vi farete per malordo. La signora non l'accordo, la signora non l'accordo, la signora non l'accordo, volere ballarsi. a nome mio. Cosa ho fatto? In pace io torno, pur stufisco, notte e giorno, questa è troppa crudeltà. Notte e giorno, notte e giorno, questa è troppa crudeltà. Dicono i pianeti. Ma, quella voce! scopimento vi sarà uno svenimento, non se di le apprepara, non se di le apprepara. Et annunzio la mia sorte, il presto e duro tanto, che sfido che quasi il pianto. Io ti vengo a tremolar. Ma non costa, che non sia, ma non sono, tanto amor che non in sol desia, di poter non te tornar. Dove vive, infelice, infelice, dove vive, ma non è vero, fai da bello. E se forse, signor, lo so, se signore, sono quella, sono quella. Vedi, vedi, io provo Oh, la trovo, sentirà. Bell'amico, chi s'apprezza? Anche l'altra, sembra lei. Il genonio, brillante. Resto qui le veste di gambe. Stando un modo, è già cambiato. Mi soffrite, mi soffrite. Il destino, ingrato, così muovi. cosa serve? Ormai bisogna darsi pace, e la farà poco con la sua compagnia. A cenar chi verrà, potrete allora torla sul fatto. Ora bevete, che in bando vada in un solo istante la moglie capricciosa e divagante. Caro poeta mio, darei la testa della muraglia se a capricci suoi e alla mia cecità colgo il pensiero. Sofferenza ci vuol, anche un bicchiero. E vedo qualche incontro, il vin potrebbe porgere qualche coraggio al scimunito, altrimenti il mio dramma è già finito. A proposito, amico, senza molto cercarti io qua ti trovo, gran cose devo dirti. Intrigo nuovo. E grandi cose anch'io bramava dirvi, appunto. Io mi ritiro per schivare un incontro e notar tutto. Io t'ascolto. Parlate. Dunque possiamo sedere. Come bramate? Or principia se vuoi, no? Principiate voi! E ben principierò! Quant'anni sono che con donna fiori unisce il matrimonio? Fra poco saran sei. Calma, Geronio. Amor che passa un lustro deve stancare assai. Difatti sono stanco, ma stanco molto. Il matrimonio è in gran peso fra voi. Lo sa ciascuno che lo sente sul dosso. Va bene, la meraviglia. Qual discorso? Quando si trova poi una donna bizzarra capricciosa come la vostra sposa, il povero marito è rovinato. Seguiti un po' lido. Or dunque del tuo stato trovarti devi malcontento assai. L'avete indovinato. Io vengo amico ad offrirti un rimedio, a cavarti d'impiccio, e non dovrai per il riposo tuo faticar molto. Ma come vi spiegate? Oti, ascolto. Beluzzo di Turchia, forse avrai novella intesa. Forse avrai novella intesa. Della moglie che li pesa. Il marito imprenditor della moglie che li Oh, il marito è venditor della moglie che li pesa, il marito è venditor. Sarà russo, molto buono, ma in Italia è tutto il russo. Ma in Italia è più belluso. Il marito rompe il muso. Quasi sempre al comprator il marito rompe il muso, quasi sempre al comprator. Il marito rompe il muso, rompe il muso, quasi sempre, quasi sempre, quasi sempre al comprator. Anche questo sarà buono, ma fra noi non deve entrare. Anzi, questo più di quello mi conviene ad abbracciare. Ma perché? Le nostre usanze piace a me salvare ancora. Piace a me le nostre usanze. Le nostre usanze piace a me salvare ancora. Non è poi tanto sciocco come voglio, come vogliono che sia. Io questa mia, qui ci vuol prudenza e cor. Su giudizio questa mia, qui ci vuol prudenza e cor. Su giudizio testa mia, testa, testa, testa mia, qui ci vuol prudenza e cor. Se Fiorilla divenne mia madre, senza fare più lungo discorso, io la compro denaro vi sforzo, per comprare al bisogno anche tre. Tre, tre, tre, tre, per comprare al bisogno anche tre. Tre, tre, tre, tre, per comprare al bisogno anche tre. Signor tutto l'ho detto e ripeto, io non vendo mia moglie a persona, e perciò se cattivo sia buona, io mia moglie la tengo per me. Io mia moglie la tengo per me. Io mia moglie la tengo per me. Maledetto! Ma pensa, ho pensato, lei si scalda. Mi scaldo, sicuro, mi scaldo, sicuro, mi scuro, sicuro. Un cielo strano e duro, io son bevendo che il mondo non brucia. Un cielo strano e duro, io son bevendo che il mondo non brucia. C'è bello più duro, c'è bello più duro, non volete, no, aspetto, ricusate, sì, ricuso, voglio averla a tuo dispetto. Non l'avrà, ora s'altruso, e sarebbe, sarebbe in volo. Ed invece di pagarla, il buffone che soffone per far presto da ammazzare. Sì, sì, per far presto, presto, presto, per far presto da ammazzare. Il buffone che soffone, ed invece di pagarla, il buffone che soffone per far presto da ammazzare. Il buffone che soffone per far presto da ammazzare. Ma dovrebbe paventare che gli invece da ammazzare succedesse che dovesse ammazzato per restare. Sì, sì, succedesse che dovesse ammazzato per restare. Ammazzato, ammazzato. Ma dovrebbe paventare che invece da ammazzare succedesse che dovesse ammazzato per restare. Succedesse che dovesse ammazzato per restare. Alle prove, venga avanti, presto via. Si trovi un poco, devi dare un po' di spagni. Viene, viene, viene, ci vedremo, irai il trovo, ci vedremo. Ci vedremo, ci vedremo l'altro. Ci saranno tutte date, ci saranno tutte date. Sì, sì, sì, sì. Ci saranno tutte date, ci saranno tutte date. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Che non mi lascio da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da mirare, da questa scena, dovessi accelerar la conclusione. Ma l'affare va in lungo, e qui fa d'uopo che venga presto lo sviluppo, e venga naturale, per finir con un poco di morale. Oh mio cervello, che affatica e suda, inventa il dramma mio come si chiuda. Lasciate che io possa un momento pensar. Pensar? No! Parto a me, Cosimo! O ne rinunzi? Io a me, se qui non resta... Inficio qual non ve. Crudel, non più! Comprendo qual per me servi amor. Io ti abbandono al mio rivale in braccio. Un giorno forse ti pentirai, ma tardi, aver l'affetto mio così schernito, allor che da castrei sarai tradito.

Vestita al par di lei, che l'al festino andrà, tal che Fiorilla con la maschera in volto sembrerà. Voi da turco dovete andar. E allora potrete ingannata Fiorilla. Ho inteso, andiamo, più tempo lo perdiamo. Intesi, ho tutto intesi, in questo albergo mi guidò la fortuna. Ingrata donna, non fuggi mai da me, tutto voglio tentar perché mi resti. No, che mi servirai, che promettesti. Uno, tre, destino. Dove mai riducesti un povero sgraziato marito disperato? Dover per tutto il ghetto correre a suo dispetto? Cercare abiti a nolo, caricarsi qual asino da sopra, diventar caimacan. Contra sue voglie. E per chi? Per quel diavolo di mia moglie. Ma che moglie la mia? Cospetto è un satanasso in carne e in ossa. Ma più ci studio sopra, sempre meno l'intendo. Oh, chi m'aiuta? Con stil com'io vorrei, robusto e forte, tutti i pregi spiegar di mia consorte. Se ho da dirla avrei molto a piacere, ma mia moglie di fare il ritratto, di fare il ritratto, di fare il ritratto. Ma se sopra vi faccio un pensiero, vi faccio un pensiero, resto incerto, ne so cosa far, sì, resto incerto, ne so cosa far. Se pettegolo, ahimè, che malanno, se è volubile, ahimè, che flagello, ahimè, che flagello, ahimè, che flagello. Se è capriccioso, ahimè, che martello, ahimè, che martello. Se è volubile, se è capriccioso, ahimè, che malanno, ahimè, che malanno. Oh, perbacco il ritratto a mia moglie, non mi fido nemmeno da pozzar, non mi fido nemmeno da pozzar. Cappellini, cappelloni, scuffiettini, scuffiettoni, la carrozza alla bombe, i cavalli alla scudetta, il ventaglio, il ventaglino, piume bianche e piume nere, pertini, perrucconi, ricciattini, ricciottelli, conciature con capelli, conciature con capelli, al teatro, al ballo, al gioco, proprio fatta la campagna, l'accademia, la commedia, la farsetta, la tragedia, la farsetta, la tragedia, anche l'ania di rabbia, di nebbia, in tal caso di conca crepar, in tal caso di conca crepar, in tal caso di conca crepar, in tal caso di conca crepar. Che non possa trovarsene una, abbiamo tutte la loro magagna, la loro magagna. Ma se nel mondo non vode la luna guida per non la so ritrovar, guida per non la so ritrovar. Ma se nel mondo non vode la luna guida per non la so ritrovar, guida per non la so ritrovar, guida per non la so ritrovar, guida per, guida per, guida per non la so ritrovar, guida per, guida per, guida per non la so ritrovar. I cappellini, i cappelloni, scoppiettini, scoppiettini, la carrozza, la bombe, i cavalli allo scudè, il ventaglio, il ventaglino, piume bianche, piume nere, perrucchini, perrucconi, ricciottini, ricciottè, conciature con capelli, con teatro, con la campagna, la campagna, la campagna, la campagna, la campagna, la campagna. Che non possa trovarsene una, cambian tutte la loro magagna, la loro magagna. Ma se nel mondo non vuole la luna, fida per non la so ritrovar, fida per non la so ritrovar. Ma se nel mondo non vuole la luna, vida per non la so ritrovar. casa nel mondo non vado la luna, qui da terra la solito è, la solito è, qui da terra la solito è, la solito è, qui da terra la solito è, la solito è, la solito è, la solito è. Cervello duro, sono quasi sicuro che sbaglia la lezione e il secondo atto mio guasta e rovina, ma confido che buone l'indovina. Ecco appunto al bazar e ben trovasti il vestito per Zaida. Lo trovai bene, gran parte nel mio dramma avrai. Il tuo carattere, benché non sia sublime, non sarà privo di interesse in tutto, se del nostro operar porremo il frutto. Zaida? Zaida? Zaida? Zaida infelice! Zaida infelice! Questo me lo gancio. Zaida infelice! Qualche trovo l'amante dell'innocenza sua fatto di acerbo, di un'altra donna innamorato il vede. E questo è il premio di sua lunga fede. Capriccioso è quel nome a cui Un altro Selin qui vedo, e quella pur mi sembra Fiorilla. Quanto fastidio è questo qua? Quale di loro la moglie mia sarà? Oh, guardate che accidente. Non conosco più mia moglie. Vengo al turco, e quali spoglie. Tutto qual cosa vi farò. Persuadermi cor vorrei, ma risolvermi non so. Persuadermi cor vorrei, ma risolvermi non so. Ma risolvermi non so. Oh, guardate che accidente, non conosco più mia moglie. Qual corte, quali spoglie, tutto uguale che farò. Oh, guardate che accidente, non conosco più mia moglie. Andate fuori, non ci state a rinventare. Se ci andiamo fuori, Darei del capo nella muraglia, a più riparo alcuno, a tanto mal non veggio, perdo la voglia, si può dar di peggio. Ah, poeta, non sali! Sì, so tutto, incontrai Zaida insieme a Selim, l'ho conosciuta al segno che mi fece. Ma Fiorilla era qui pure, e aveva una maschera secco che quel turco parea. Tutto è scoperto, era Narciso. E come poté Narciso? Di Fiorilla amante, era anch'egli. Che dici? Ed io buffone, io lo faceva entrare liberamente. Gran cecità! Non m'accorsi di niente. E adesso, ove si trova quella civetta? Dopo aver scoperto Narciso l'ha piantato ed è tornato al festino i compagni a ricercare. Or va in traccia del turco. E che ho da fare? Io ve il dirò. L'ho già disposto in mente come fosse un drammatico accidente. Un giorno mi diceste che è stanco di soffrire gli oltraggi suoi, di allontanar da voi Fiorilla proponeste e di fare un divorzio anche otteneste. È vero, e la sentenza diedi Arpaglietta. Bene, or dovete ricorrere Arpaglietta e fingere senza altri compimenti di rimandar Fiorilla ai suoi parenti. Ma se ostinata sprezza il mio finto divorzio, e se col turco ella partir risolve, ah, caro amico, è finita la festa. No, signori, con voi Fiorilla resta. Perché? Se l'inconzaida ha fatto parte, e gli stesso mi manca a prendere la sua roba. Andalo, gandri! La sorte ci seconda. Conservate fermezza in ogni evento. Non si può dar migliore scioglimento. I vostri cenci vi mando in casa mia, più non vi voglio guardare di bene. Don Geronio. Eh? adesso io crepo qui. Non tema, signorina, che coltellar mai più non la farò. Rimedio ci porrò. L'avviso intanto che era visto mi son più che non crede che in casa mia più non si mette il piede. Anzi, tra poche parte con essa per Turchia, nota tutto ed osserva. Oh, musa mia! Vinto dunque colei! Perdito! E Dio nulla, per voi col mondo ascolti mi davanti, per marito dispetto! Un altro colpo, ed otteniam l'effetto! Alto! Aspettate! Questa lettera vi manda il marito. Casa le porte, li vado con sorte per sempre. questa dramma. Son contento, un miglior argomento trovar non si potea, né in miglior modo avviluppar si cercherebbe il nodo. Amico, a meraviglia, pianto strida, rimorsi a tragedia. Miratela, sospira. Ella è pentita? È pentita davvero? Non ve lo diceva, perché state indeciso, andate innanzi. Romeo, come perché siamo anzi? Fiorino, poverino. Vi ha scoperto e vi mira. Il mio favore, chissà, forse di parlo e di primo amore. Qui venne rapita, la sua vite d'ignudo restò. Il tutore sognò di buon cuore, e di nuovo congiungerli può, e di nuovo congiungerli può. Andarli qua, poi va bene andare. dei vostri errori. Perdonate ciò di solo. Permettetevi, signori, che vi chiedo anch'io perdono all'esempio che mi date e intreccio mi sarà. E l'intreccio terminato, lieto fine al dramma mio e contento.